Ad alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Terza puntata. Cerco una pietra pulita dove sedermi. Un'altra giornata di guerra è alla fine, sono stanca. E i vialetti di Boboli sono un'immensa latrina. Alla magra fontanella, che era uno scherzo signorile, 10 donne litigano per l'acqua, ma io non le avverto. Sono una prepotente pentita che fa ammenda, e la terza passeggiata di Artemisia mi perseguita. Le portarono un'imbasciata da Corte Savella. La recava un accattone coperto d'ulcere false, che salì la scala a passi sordi. Venisse dopo le 23 la signora Artemisia, che il signor Agostino le voleva parlare. L'uomo si esprimeva con difficoltà, era un siciliano, e giunto a terreno si infilò nella stanzaccia degli stiattesi e non ne veniva più fuori. Più tardi salì le scale lo stiattesi vecchio, strascicando i piedi, lagrimando e sempre afferrando ora la mano, ora il braccio, ora la veste di Artemisia per avvalorare il discorso e persuaderla. «Non dormo, non mangio finché dura questo vituperio. Vi dovete sposare come Dio comanda. A Corte Savella v'accompagno io. Diremo a Orazio che si va alle 40 ore. Viene anche Grazia. Vi farà da madre. S'alza da letto apposta». Baciava in terra, alzava il crocifisso al cielo, se lo poneva in petto. Era già notte. Grazia, sfinita dalla febbre, non ce la faceva a camminare e il marito le comandò di aspettarci seduta al buio su un gradino. Tanto era vecchia e nessuno le badava. Passarono Ponte Sisto, poi, invece di piegare per San Carlo, presero a sinistra. «Non lo dite a nessuno», bisbigliava il vecchio. «Non lo dite né a Tuzia, né a Clementina, che vi ci ho menato io. Fidatevi solo di me. Tenete il segreto. Che non lo sappia vostro padre, per carità. È uomo collerico». Nel corpo di guardia la lampada era stata accesa da poco perché ancora tentennava e lo stiattesi disse «Aspettatemi qui». E andò verso un tavolo dove due birri giocavano con un tale seduto di spalle che si voltò. Era Agostino. Il vecchio gli si levò la berretta e rimase tutto inclinato come davanti al padrone. Parlarono e parlarono. Agostino ogni tanto si agitava impaziente, non mostrava ad accorgersi che Artemisia era accanto alla porta. Pareva che comandasse anche lì dentro. E finalmente il vecchio si staccò da lui e disse forte: «Venite avanti, signor Artemisia, il vostro promesso vi vuole parlare». Dagli angoli in ombra scaturirono risatacce sguaiate che commentavano quella voce pedante, untuosa, e un soldato, parandole il passo, fece l'atto di inchinarsi alla fanciulla e poi si rovesciò sulla vita a sghignazzare. Chi diceva «Illustrissima», chi imitava il verso delle galline, e uno gorgheggiò smodatamente «Ben mio!». Tutti uomini che accusavano con quelle beffe proterve la loro presenza invisibile legata al lezzo di cuoio e di sudore. «Una buona proposta da cavaliere che gli preme la sua reputazione», continua lo stiattesi guardando in giro insieme sorridendo come se quegli scherni fossero chiasso di bambini. «Voi dite che non è stato il primo. La denunzia cade, lo levate di carcere e subito vi sposa. Se è verità, santa penitenza. Se è bugia, la offrite alle anime del purgatorio. Il mio consiglio». Non cadde un sassolino, ma un frastuono immenso riempì gli orecchi e tutti i sensi di Artemisia. Il suo sangue pesò come piombo e il suo rossore, chi se ne fosse curato, era pesta lividura alla luce del fanale che, come un pipistrellaccio, non smette di sbattere la sua ombra sul pavimento. Agostino è un oggetto oscuro che la guarda ed è impossibile restituirgli carattere d'uomo, nonché d'amico, nonché d'amante. Forse L'ha salutata, forse qualcosa ha detto, ma ecco scaturire il furiere Cosimo Quarley. Coraggio, bella zita, già il tuo nome lo sai fare. Qua sta il foglio e qua sta lo sposo. E la salvezza fu lo stesso moto che per ben altro impulso la divise da Cecilia. Voltar le spalle, fuggire, correva nel buio afoso, non abbastanza denso per sconfiggere il ricordo del lampione rosso e il confuso vociare di birri e carcerati, sorpresi da quella fuga. Forse lo Stiattesi la inseguiva, ma lei sapeva correre, grazie a Dio, senza inciampare, e la strada era facile e confidente sotto i suoi piedi veloci. Non aveva paura di mali incontri e quando s'accorse che nessuno la rincorreva, ritrovò subito il respiro largo, leggero, e gridò, come fosse giorno, alla povera Grazia tremante sullo scalino: «Andiamo, andiamo!» Era pronta a sollevarla, a portarla in braccio, forte come un cavallo. E tutto andò miracolosamente bene. Le vie erano deserte, deserto il portone, la scala, nessuno la vide salire, chiudere l'uscio, solo chi è bruciato dalla vergogna chiama queste inezie una fortuna. Tuzia non c'era, Orazio non era tornato. Zitta, zitta, si stese fra le lenzuola senza guardare neppure i fratelli che dormivano, poveretti. Il suo sangue era gonfio e teso come una nuvola di temporale. Poi, a poco, si condensò, tornò a scorrere, traversato da frasi e sentenze troppo rapide, disperatamente concise per un cervello così giovane. Durasse per sempre il buio. Nessuno mi riconoscerebbe per donna. Inferno per me, male per gli altri. Quella notte non pensò a riscattare il ricordo della sua antica innocenza e a fermarcisi, incredula di quel che era avvenuto, convinta di un diritto di offesa e di un risarcimento, magari di un trionfo di vittima. E garzoni, lavandaie, modelli, barbieri, pittori, parassiti, persone che dimostravano di vederla appena da che era piccola e invece l'avevano seguita ora per ora, sostituendo ai suoi, davanti al giudice, gesti e movenze irriconoscibili. Oggi si sente colpevole. Colpevole come ciascuno vorrà, colpevole fin da quando rubava le fragole nell'orto dei frati e poi la pallida Cecilia la guardava. Se la trattano così, devono aver ragione. Una macchia l'ha sempre designata agli occhi di tutti. Disse bene Tuzia quando rispose a Orazio: «Guardatevela da voi, la vostra puttanella». È giusto che le vicine, accoccolate come gatti sui davanzali del cortiletto, si rilancino novelle del suo caso ogni giorno a voce alta, senza un riguardo al mondo. Una freddezza affranta le schiude su queste basi, un avvenire solitario e rassegnato di reproba che sarà almeno il suo regno, come son suoi questo buio, questo letto dove si è nascosta, e il sonno che nessuno può impedirle di simulare se un lume volesse forzarlo. Ci rimarrà padrona di compiangersi e di pensare come non è permesso, diversa dagli integri ma anche dai corrotti. Potrà fare i suoi calcoli come un mendico conta i suoi quattro baiocchi su cui ognuno vuole inquisire. Avrà il tempo per compagno, lo riempirà a modo suo, con lacrime, indifferenza, allegrie dove nessuno potrà penetrare e che nutriranno segretamente il suo orgoglio strapazzato. Alla fine, rivoltandosi sul fianco destro per addormentarsi davvero, vedranno chi è Artemisia, le vien detto. L'alterigia fanciullesca e un po' smargiassa della sua natura viene allora a confortarla, angelo nero e puerile, innocente e forte, che torna piano piano a custodirla. Esso ignora l'umiltà, la dolcezza, il dubbio cauto e ombroso dello stato femminile. Nulla trattiene il vento delle sue ali. Soltanto una tenera soggezione può fermarlo. Se Artemisia Gentileschi pensi a suo padre, ma il difficile amore di Orazio si è distolto da lei e il suo gran valore è una spada giustiziera ad ogni debolezza, la cui immagine basta a trafiggere. Convien di vezzarsene chi non voglia morire di pena. La terza passeggiata di Artemisia mi ha rimesso in un cammino che non ha scopo né fine. Mentre cambiano i giorni, ma non le cose e gli avvenimenti intorno a me, e non muta l'ostinato lavoro non già della memoria, ma delle immagini che dalla memoria traggono un impercettibile alimento. quella che mi consolò, che rimpianse e fu con me viva e viva esaltata, mi occupa come un personaggio che nessuno possa ignorare, di fama illustre, di esempio pregnante, un personaggio dalla biografia ovvia, anno per anno, che vale la pena di resuscitare ora per ora, proprio nei giorni in cui la sua storia tace, non una pagina risale dalle macerie, ma la memoria di una specie di testo, di manuale illustrato. Agostino prosciolto e dimesso per gli intrighi di Cosimo Furiere e i venali uffici di Giambattista Stiattesi. Orazio Gentileschi restituito a un'impassibilità intellettuale appena appena venata di disgusto e Artemisia ridotta da un'effimera scandalosa celebrità a una solitudine riottosa e insidiata. Ecco i fatti che mi valgono, e non so se arrossirne, come una seconda guerra punica. Si può ben congetturare cosa mangiassero gli elefanti africani in Italia. Si può ben pensare alle serate di Artemisia nell'estate del 1615. Ha compiuto 17 anni. Non ha cambiato casa, Orazio, non si cura della memoria dei vicini quando la sua si è spenta. E non gli preme che la figlia incontri ogni giorno chi può mostrarla a dito. Nel maggio 1612 Luca Ponti, sartore, teste per Agostino, disse al signor giudice con insolenza: «Si sa, a Roma, fra amici, non si parla che di fottere e di litigare». Il costume non è mutato e Artemisia, malgrado il caldo, chiude l'impennata di pieno giorno, che nessuno la veda. I fratelli lavorano, Marco nel cuoio, Giulio a bottega, Francesco da stuccatore. Sono liberi come adulti e la sera cenano all'osteria, al fresco. A quell'ora il pallore di Artemisia reclusa tira al verde, i suoi capelli pendono sulle guance come matasse di seta opaca. Essa siede e disegna fino a buio e allora, senza aprire la finestra, accende la lucerna. I modelli, pupazzi vestiti, statuette, li fornisce lo studio del padre che lavora, mangia e dorme fuori a Montecavallo. Coi nastri e le sete del suo scarso corredo di bella figliuola, essa accomoda i soggetti, in più fiori, frutta, un teschio. Talvolta quelle scene imbandite e silenziose l'atterriscono, se soltanto l'attenzione degli occhi s'allenta. Allora si alza, fa un giro per la stanza, che è la cucina, questa casa è senza sala, si ferma davanti alla finestra, ma non l'apre. Si incanta ad ascoltare il gran vocio del cortile, di cui riconosce ogni suono. Clementina sbatte le uova per la frittata e chiede il basilico alla nuova pigionale. Lucia dal terrazzo chiama a raccolta le amiche per proporre una gita stasera a Sant'Onofrio, che ci fa fresco. I figli di Mastro Pasquale, rincasati dal lavoro, domandano bestemmiando acqua per lavarsi e dal pianterreno, dove ancora abitano gli Stiattesi, si leva uno sconosciuto canto a due voci. «Dimmi, amor, dimmi!» Che più di ogni altra cosa irrita il desiderio di affacciarsi, ascoltare, interrogare, guardare. Ma basta l'accento strascicato di Tuzia, passata dal primo al secondo piano. «Movi, caro, la ciambella, spande un odore!» Perché la mano già posata sul nottolino ricada lungo il fianco. Ancora un giro e qualche gesto inutile, spostare la pila dalla madre al secchiaio, versarsi un bicchiere d'acqua e la ragazza è da capo seduta col toccalapis fra le dita. Il lume della lucerna, sempre meno contrastato dal crepuscolo, moltiplica il gioco delle ombre nei panneggi e ravviva l'interesse dello studio. Un nuovo foglio bianco è inaugurato. A notte alta rientrano i fratelli e Artemisia non si è ancora concessa di aprire la finestra, ora che nessuno potrebbe vederla, e respirare. Disegna ancora, con una saggia applicazione che quasi smentisce i segni della stanchezza, gli occhi rimpiccioliti e il lividore delle orbite. Giulio e Marco si rimbucano a letto, ma Francesco resta a girellare nella cucina. Carezza il gatto, smoccola il lume e trova sempre modo di fermarsi un secondo alle spalle della sorella, un secondo e non di più, che sa bene come non piace ad Artemisia di essere guardata mentre lavora. Alla fine non resiste alla tentazione di prendere un panchetto e sedere anche lui, con un foglio davanti e un carboncino in mano. Si contenta di uno spicchio di tavolo e della porzione di modello che è visibile dal suo posto. La sua mano, inaridita dal lavoro materiale, a poco si scioglie e anche il silenzio notturno pare sciogliersi in quell'esercizio che per i gentileschi è come una conversazione a monosillabi, frasi brevi. La conversazione vera si avvia e allora il disegno di Francesco procede lento e distratto. I suoi occhi si distolgono spesso dal foglio e dal modello per posarsi sulle mani di Artemisia, sul suo lavoro. Ora non teme di infastidirla se segue il movimento della sua matita e se, inclinandosi verso di lei, si indugia a guardare il suo disegno. L'intenzione della manina asciutta, un po' lentiginosa sul dorso, vale per due, segreta e palese, tanto che il ragazzo finisce per incitarla e applaudirla liberamente. Talvolta gli viene di suggerire più lume a destra e di correggere sul modello una piega sgarbata, frutti di un'interpretazione che non falla mai. Suonano le ore. Artemisia finalmente sbadiglia e l'attenzione di Francesco passa dal disegno al viso di lei. Non dice smetti, ma le gomita sul tavolo, il capo fra le mani, in un'attitudine suggestiva di riposo, comincia a raccontare di Carlo Veneziano, che ha quel bel colorito, e di Borgianni quando era in Spagna, di Valentino Francese risentito come il Caravaggio, dei quadri ordinati dal signor Giustiniani, di pittori richiesti da Madrid o dal re di Francia. Ha messo a posto la tela di antiveduto, il San Lorenzo del Baglioni non piace. Artemisia, senza vedersene, ha smesso di lavorare, ascolta, interroga, fino a sorridere con quelle labbra pallide e screpolate, fino a scherzare, tanto tempo che non esce a spasso, che non vede gli amici del padre, che non assiste ai loro discorsi. E spesso Francesco serba per ultima la sorpresa, la scintilla di gioia. In bottega di Angelo Scultore, il pittor modenese ha detto: vorrei saper dipingere come quella giovane che abita San Spirito, figlia del Gentileschi. Non è facile neanche per Francesco decifrare la commozione sul viso di Artemisia. Essa lo sottrae, chinandosi a raccogliere le carte, a raccattare il lapis che è caduto in terra. Ma la concordia dei gesti con cui i due fratelli riordinano il tavolo e spengono il lume vale una stretta di mano, un ringraziamento. Prima di scomparire dietro la tenda verde che nasconde il suo pagliericcio, il ragazzo ha aperto la finestra e la frigida aria notturna è come un regalo che lascia ad Artemisia, la quale si ferma a respirare prima di andare a letto e le gira un po' la testa e quasi sbigottisce del gran cielo alto e lontano su cui par battere il campanone di San Pietro. Lassù le stelle compongono i loro disegni come passate da uno spolvero luminoso che aspetti una pennellessa gigante. Le palme calde a contatto del freddo marmo, i ginocchi sullo sgabello, Artemisia abbandona il capo sul davanzale, parendole di navigare incontro alla sua fortuna. E a volte sogna che un passo sale la scala e si ferma davanti all'uscio, che una chiave gira nella toppa. Non sogna, è proprio il babbo Orazio che torna a casa stanotte ed ecco, entra in cucina. Che paura e che gioia soffocata. Sospesa, impietrita, la fanciulla assiste a una specie di cataclisma dei propri pensieri che formulano velocissimi le facili supposizioni di Orazio nel trovarla levata di notte alla finestra. Un abisso si apre ai piedi dell'eterna colpevole. Se il padre aprirà la bocca, essa non saprà rispondere, ci cadrà di schianto. Un attimo, ma lungo abbastanza per adorare da disperata quei panni che la brezza notturna ha inumiditi, la mano che tutto il giorno ha dipinto, ha stretto il bicchiere, ha spezzato il pane, lontano dai suoi occhi, la fronte severa, lo sguardo che fulmina senza volerlo e subito si ritrae verso interiori e misteriosi compensi. In silenzio Orazio compie gesti stanchi e distratti ed ecco che lei trema, palpite e si mette a parlare. La verità è semplice, onesta, ma Artemisia non la sa sostenere, come non regge il silenzio. Così un vaso ferito non tiene più l'acqua pura. Per rendersi degna di fiducia, essa inventerebbe una colpa, un altro amante, più verosimile, le pare, di questa innocente sosta presso una finestra aperta. Eppure è la verità che le esce dal labbro impacciato. Stavo qui, avevo caldo, mi addormentavo. Ma così stravolta, alterata, balbuziente, che nessuno la riconoscerebbe per tale. Infatti, Orazio non risponde. Forse non ascolta neppure. Amaramente sazio di sospetti e di sdegno. Una condizione che la figlia penetra acutamente e che vorrebbe mutare, trascinandosi in terra, mostrando, per così dire, il colore del proprio sangue mortificato. Fantasie inutili. E inutilmente si incanta nell'immaginare un bacio a quella destra che accende l'accerino, un accostarsi e riposare sul petto paterno. Intanto, disancorata in un istinto di insana difesa, la voce seguita a ripetere parole vicine al pretesto, alla menzogna, e prende il tono della femminuccia querula, malfida, colta in fallo. Ecco che Orazio ha acceso il suo lume. Ecco che s'avvia, freddo e tetro, in camera. Buonanotte, pronunzia prima di scomparire. E Artemisia rimane senza fiato, vuota persino di disperazione, dinanzi al vuoto cielo. Solo più tardi, quasi all'alba, potrà piangere e addormentarsi sul suo letto. Ma una sera, sul finir d'agosto, il ritorno d'Orazio fu improvviso, a 21:00, quando le vicine non avevano ancora cenato e la dispersione del chiacchiericcio e dei lazzi isolava con più rilievo l'operosa solitudine di Artemisia, seduta al suo tavolo, negletta la vesticciola, una tazza di latte posata accanto ai fogli del disegno. Per insidia che imbastisse la persuasione d'essere sospettata e giudicata male, Artemisia non poté questa volta che rispecchiarsi innocente. Aveva a modello un'ala grigia di piccione, pazientemente ricucita, incollata, che doveva figurare l'ala d'angelo, e sul manichino un ritaglio di broccato azzurro. Gli occhi chiari della fanciulla, sollevati sul padre che entrava, riflettevano quell'azzurro, assorta e limpida. Essa gli apparve come quando la ritraeva bambina, che se ne stava quieta a vederlo dipingere. Dapprima non ci furono parole, ma nello sguardo di Orazio, quella luce gioviale di quando discorreva di pittura o gliene mostravano, specchio di un'attività desiderosa e felice. Erano anni che la figliuola non la ritrovava e fu un raggio di sole che le distese la mano schiusa sul lapis, illuminò il foglio, disciolse le sue membra umiliate. Come si chinava su di lei, essa gli vide all'angolo dell'occhio quella contrazione di rughettine benevole che preludeva un sorriso, un segno di soddisfazione. Col polpastrello del pollice egli fuse delicatamente l'ombra un po' tagliente del carboncino nella veste dell'angelo. Si rialzò e anche lei si levava intimidita, ma non più goffa. Orazio disse «Finisci» ed entrò in camera. Dopo un minuto lo sentì che fischiettava, risciacquandosi. Quella sera dai gentileschi ci fu la minestra e la frittata come in ogni altra casa del vicinato, e padre e figlia mangiarono seduti, uno di fronte all'altra. Orazio aveva aperta la finestra, le rondini la traversavano e il frastuono del cortile, anche la voce di Tuzia che non mancò, rimase esterno, come se le imposte fossero chiuse. Mescendosi l'ultimo bicchiere, Orazio cominciò a parlare e Artemisia fu così felice che le parole le sfuggivano, sentiva solo la voce. L'aveva sorda e bassa, quasi svogliata, e più quando sapeva di dir cose nuove, da essere accolte con interesse o meraviglia. «Ho finito a Montecavallo, non voglio più lavorare a Roma, mi bisogna viaggiare. Per ora si va a Firenze. Il Granduca mi ha fatto parlare, le condizioni convengono. C'entra anche una corsa a Pisa.» Votato il bicchiere, Orazio si alza da tavola. Il suo dorso asciutto si staglia nella luce pallida della finestra. La figliuola è rimasta seduta fra i cocci che dovrà rigovernare, ma senza fiato, fra il timore e la speranza. «Si va? Di chi intende il babbo? Forse vuol condurre il seco Francesco e magari tutti i fratelli. Lei rimarrà sola a Roma.» E allora Orazio si voltò, la guardò un momento, poi fissò con attenzione il secchiaio. «Se vuoi venire, ti porto con me. E con me lavori. Ma prima ti devi sposare.»